5D. Ascolta e trasforma. Carlo, scusa, devi aspettare. Signore, scusi, deve aspettare. Marta, scusa, devi firmare qui. Signora, scusi, deve firmare qui. Mario, scusa, devi portare una fototessera. Signore, scusi, deve portare una fototessera. Patrizia, scusa, devi restituire la penna. Signora, scusi, deve restituire la penna. Alessandro, scusa, devi scrivere qui l'indirizzo. Signore, scusi, deve scrivere qui l'indirizzo.